otra mostra da cranio che lo esfavola. Scrivo con coltello su pelle già sanguinante, in un istante tuffante, sfida già per latitante. Giusto per il vostro disgusto, ritorno nel mondo dei vivi. E se ti uccidi fai un favore, una lista piena di omicidi. Così risparmio tempo, la mia musica ormai è morta. E son contento se nessuno vuole che risorga. Un'onda anomala che fa un massacro generale, distrugge tutto e tutti, così nessuno piange al funerale. Vengo in pace con una bandiera nera, con un teschio. Non sono pirata, ma è la morte che è diventata un maschio. Faccio di tutto un fascio, un falò dei vostri cani. In un campo deserto pieno di pali con i vostri crani. Ho lo sguardo sadico, il sorriso demenziale assitato. Nel vostro sangue coagulato, disgustato dal mio palato. Sono convinto che la morte tu non l'hai mai vista in faccia. Piangere è normale se ti parla su questa traccia. La mia è musica morta, che ti rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciuga ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrappa. La mia è musica morta, che ti rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciugo ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrapola. Spingo i vostri colpi in fondo al fossato. La vita insegna di restituire quello che ti hanno dato. E allora si fa un festino, vi rinchiudo in una villa. Voi dentro e demolisco tutto a bordo di un caterpillar. Tu vesti di nero perché nero snellisce. Vesto di nero come il buco nero che ti inghiottisce. Si capisce? In TV buco lo schermo, ma nel senso che in diretta su X Factor buco dice Francesco. No, parlo di troiene e di puttane per le strade. Vuoi che parli di puttane? La puttana di tua madre accade. Che mi rinchiudono in una stanza buia con un cappio stretto al collo, ben appeso alla soglia della tua porta di casa, con la tua sposa che ormai vedo. Dopo pompo al massimo le case, il muro che si sgretola. Il mio popolo accende fuochi come le strade di sera. Se lo senti brucia l'anima, il tuo corpo si crema. La mia è musica morta, che si rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciugo ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrappa. La mia è musica morta, che si rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciugo ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrapola. E quando passo per strada passa gli occhi, sono un morto che parla. Sono la scossa 380 che la testa ti salta. Tu canta che ti passa, zio rappa che ti scassa. Ma sarà tua carcassa grassa sulla cassa che sanguina. Sono come mi vedi, trasparente come l'acqua. Il vostro flow fa acqua, io ho noleggiato una barca. Sono come un iceberg contro voi Titanic. Volete fare i titani, ma finite tritani. Musica morta, viola libido, sono la morte passa il brivido. È come un film muto con un attore logorroico. Fa ridere tipo comico in un film horror con. Con il solito finale paranoico. Dove i cattivi muoiono è logico. Ti lascio a terra con le tue stesse paure. Le ingiurie, scongiure, cure dure e punture. Se mi guardi dentro gli occhi vedi il fuoco dell'inferno. Così fuoco che rimani dentro il mio incendio. La mia è musica morta, che si rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciugo ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrappa. La mia è musica morta, che si rispecchia dentro l'anima. Musica morta, sia che ti esamina. Musica morta, che ti asciugo ogni lacrima. Musica morta, da cranio che lo estrapola.